Bene, ci siamo, visionari di giovedì 10 maggio del 2012 sugli 87.900 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Dicevo che avremmo cominciato con qualche minuto di anticipo perché abbiamo tanti ospiti quest'oggi e cominciamo con Gabriella Gallozzi, responsabile del premio Bookchuck Azione, che sarà presentato e sarà attivo alle giornate degli autori alla prossima mostra del cinema di Venezia. Intanto Gabriella, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Come va? Bene, grazie. Siamo allora in preparativi per mettere in piedi il premio, o meglio, vi spiego intanto di che si tratta. Esatto. Stiamo parlando di cinema e letteratura, ossia un rapporto, come dire, che oramai è costante. Tantissimi film sono tratti da romanzi, il caso più eclatante è stato Gomorra, pensando alle fiction televisive, pensiamo al commissario Montalbano, ma è un rapporto che comunque continua a essere in piedi, esisteva e esiste ancora, ma in realtà non è è legato, diciamo, ai rapporti personali più che altro delle grandi case editrici con le grandi case di produzione. Per cui, insomma, io ho realizzato questo sito che si chiama, è un portale, che si chiama Bookchuck, come dice il nome è facile, cioè il libro e il film, e nel quale i produttori possono trovare i romanzi più adatti da portare al cinema. È stato un progetto speciale del MIBAC, ha avuto un finanziamento pubblico, poi ha avuto il sostegno appunto dell'ANICA, dell'ANAC, dell'APT e abbiamo anche il sostegno del Solinas, perché abbiamo all'interno anche delle sceneggiature premiate al premio di sceneggiatura del Solinas. E, per, come dire, rilanciare il sito è nata l'idea di questo premio. Stiamo parlando di un premio per video sperimentali, cioè per realizzare dei corti di massimo 3 minuti a partire da questi romanzi che sono contenuti nel nostro portale. Ne abbiamo selezionati 3 e a questi possono ispirarsi filmmaker che hanno voglia di cimentarsi con questo formato del tutto nuovo e del tutto sperimentale, perché non stiamo parlando dei Bookchuck, che sono, come dire, quegli spot che si vedono in rete, no? Ormai tradizionali, che fanno fare gli editori per pubblicizzare il libro, ma sono proprio dei video sperimentali che possono essere contaminati attraverso qualunque linguaggio, dalla fotografia appunto alla poesia, alla letteratura, all'animazione, nei quali i filmmaker sostanzialmente devono cimentarsi con le emozioni che arrivano loro dal romanzo. E quindi noi immaginiamo, ma anche ci auguriamo, che questo nuovo formato video possa diventare la cosiddetta quarta di copertina degli ebook, dei libri elettronici. Sì. Per cui abbiamo coinvolto in questo progetto che pensiamo del tutto innovativo e soprattutto con un côté decisamente democratico, perché è rivolto proprio a mettere in contatto il piccolo produttore col piccolo editore e poi anche il grande, perché no. Abbiamo coinvolto le giornate degli autori che, come dire, hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, e quindi il premio Bookchuck Azione sarà ospite delle giornate, ossia i 3 vincitori del concorso avranno la prestigiosa vetrina delle giornate. Oh, Gabriella, allora facciamo un passo indietro. Come hai deciso di fare di questa tua idea un sito internet e come hai cominciato a muoverti poi? Allora, diciamo che io ho iniziato il percorso così, guardando in realtà come si fa sempre all'estero, no? Guardando soprattutto ai festival stranieri, alla Berlinale, dove esiste ormai da almeno 5 anni questa vetrina stabile, cioè questo luogo di incontro fra editori e produttori. Da lì è nata l'idea, appunto, perché no, di fare qualcosa di simile anche a Roma. Naturale che questa cosa andasse fatta nel luogo, nel festival dove c'è il mercato, e appunto, a parte ora che Venezia ha annunciato che rifarà di nuovo il mercato, l'unico mercato esistente a questo punto era a Roma, al Festival di Roma. Per cui ci siamo rivolti al direttore del mercato, a Roberto Cicutto, sto parlando al plurale, che non è Maiestatis, ma sono io e una mia collega, sono una giornalista dell'Unità, e Maria Serena Paglieri, che è appunto è la critica di letteratura dell'Unità, proprio per coprire i due fronti, no? La letteratura e il cinema. Io mi occupo di cinema e lei di letteratura, per cui appunto abbiamo presentato questo progetto a Roberto Cicutto al Festival di Roma, e da lì è nata questa iniziativa che si chiama Industry Books, che è arrivata alla seconda edizione. Durante il Festival di Roma appunto c'è una giornata dedicata appunto a far incontrare produttori e editori, però poi parlando e come dire affrontando questo argomento ci siamo accorti che una sola giornata durante l'anno non è sufficiente, non basta, insomma è troppo poco. Da lì è nata l'idea: ma perché non realizziamo qualcosa di stabile, appunto una vetrina permanente? Come dire, grazie alla rete le possibilità sono più vaste, per cui abbiamo pensato a realizzare questo portale, questa banca dati. Ci siamo rivolti al MIBAC, alla direzione cinema, come dire, che ha sostenuto il progetto e ci ha finanziato, e da quel momento ci siamo messi in moto, insomma, realizzando questo portale, che effettivamente è uno scrigno di storie, perché appunto la narrativa italiana è, come dire, ricchissima, escono libri in continuazione, e come vediamo il cinema spesso attinge alla letteratura, proprio perché certo. Invece le storie servono sempre e come dire scarseggiano. Per cui nel nostro sito, ovviamente il sito è per addetti ai lavori, per cui non è aperto al pubblico, non è che si può accedere, perché stiamo parlando magari di romanzi che ancora devono uscire in libreria. Quindi, proprio a questo proposito, Gabriella, infatti ti volevo chiedere come materialmente un autore di uno scritto o un regista cinematografico, come si devono muovere in rapporto al sito internet? Ma guarda, basta che chiedano la pass, la registrazione. Okay. Noi verifichiamo appunto intanto se l'autore è stato pubblicato, perché tra l'altro appunto noi abbiamo pensato che in questa prima fase sia necessario non aprire agli autoprodotti, no? Perché sennò diventeremmo il sito degli autoprodotti. All'inizio abbiamo avuto tantissime richieste appunto dagli autoprodotti, abbiamo pensato invece che fosse necessaria la scrematura già della casa editrice, per cui l'autore, se è titolare dei diritti secondari, che sarebbero appunto i famosi diritti per la trasposizione cinematografica, se è lui stesso detentore di questi diritti, può iscriversi lui direttamente. Se invece è la casa editrice che detiene i suoi diritti, allora deve essere la casa editrice che fa l'iscrizione. Idem per come dire per il regista. O per il produttore, insomma, si possono iscrivere, noi verifichiamo se effettivamente come dire sono addetti ai lavori, hanno prodotto, hanno realizzato film eccetera, e gli diamo le pass. Dentro il sito, ecco, la cosa importante anche il discorso della triangolazione, alla quale si lega questo premio video, perché noi all'interno del sito abbiamo anche uno spazio dedicato esclusivamente ai filmmaker, cioè ai videomaker, che possono realizzare, questo al di là del concorso, i loro Bookchuck Movie, cioè questi video che abbiamo detto che si candidano a diventare la quarta di copertina del libro elettronico. Questo perché? Perché essendo il nostro sito visitato da produttori, per il giovane autore, il giovane videomaker che appunto produce in modo autarchico, può essere a sua volta la vetrina per, come dire, per intercettare anche il produttore che magari lo nota, è come nelle favole, e dice che bello, produciamolo. Bene. Gabriella, a questo punto diamo il riferimento al tuo sito internet e poi ci risentiremo più là verso Venezia, a questo punto. Assolutamente. Allora, il sito è www.bookchuck.it. E se voi andate sul sito trovate subito nell'home page tutte le indicazioni per partecipare al concorso per la realizzazione del video. Bene, allora un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, buon pomeriggio. Ciao Gabriella, ciao. Ciao. Gabriella Gallozzi, responsabile del premio Bookchuck Azione alle giornate degli autori della mostra del cinema di Venezia di quest'anno 2012. Bene, dopo averla avuta con noi per quanto riguarda la nostra trasmissione di favole, sto una favola, Valentina Carnelutti la riascoltiamo oggi, è di nuovo con noi ospite, questa volta non in studio ma per telefono. Per quanto riguarda il documentario di cui è regista, Melkam Zeina. Intanto Valentina, ben ritrovata. Ciao, ciao. Tutto bene? Grazie. Mi senti? Ecco, okay. Sì, tu mi senti? Sì, sì, ok. Allora, tra l'altro questa cosa l'abbiamo scoperta proprio mentre leggevi le favole, dopo aver letto le favole ci hai detto di questa avventura cinematografica e ti vede regista di un documentario, sei andata in Africa, raccontaci un po' questa esperienza. Ma dunque, l'idea del documentario in realtà non è stata la mia, nel senso che io ero stata chiamata da ActionAid, che è un'organizzazione non governativa che lavora in diversi paesi del mondo, come testimonial, anche se non amo molto questa parola. Appunto, proprio intorno a questa parola abbiamo avuto una conversazione in cui io, come dire, esprimevo un po' di dubbio rispetto alla figura di queste persone che devono testimoniare un lavoro ma che di fatto in prima persona spesso non ne sanno molto, e a partire da questa conversazione le ragazze con cui ho parlato di ActionAid, in particolare Fabiana Costantino, che è quella che si occupa delle relazioni pubbliche della ONG in Italia, mi ha chiesto di accompagnarli a fare questo viaggio in Etiopia. Io ho un po' esitato, mi hanno proposto di fare la regia del viaggio propriamente, ancora ho esitato, se non che il regista che avrebbe dovuto farlo all'ultimo momento non poteva più, e a quel punto, siccome io nel frattempo mi ero documentata perché sono una secchiona, mi hanno detto vabbè dai, falla te, e così mi sono lanciata in questa avventura che è stata in realtà il racconto di che cosa fa ActionAid in Etiopia, in particolare in una zona a nord-est di Addis Abeba nell'altipiano, che si chiama la regione di Ankober, e che cosa è per due persone come appunto una ero io e l'altra Rolando Ravello, che è tra l'altro la persona che mi ha fatto incontrare questa ONG, che cosa fanno due persone come noi in un posto così, cioè dove ci posizioniamo, qual è il nostro sguardo su questa povertà ma anche sulla ricchezza di questo paese. Il tentativo del documentario era proprio quello di non indugiare su tutto quello che un po' è arcinoto, no? I bambini malati con le mosche negli occhi, ma invece di cercare di mettere a fuoco due cose principalmente: una, cosa c'è di positivo, e quindi ActionAid quando chiede i soldi per invitare le persone a supportare che cosa, no? Sì, sì. Cioè non andiamo a fare l'elemosina ma a supportare qualcosa che è già in corso, che è già in atto, che è tutto il meglio di quella comunità, e dall'altra parte il tentativo di mettere a fuoco invece la posizione di noi bianchi, europei, occidentali, rispetto a un mondo altro che quindi inevitabilmente ci mette in discussione. Ecco proprio un po' logorroica, però almeno no, è la radio, quindi. Proprio a questo proposito, visto che prima hai detto che hai fatto la secchiona come tuo solito e per cui ti sei documentata, ecco, rispetto alla preparazione antecedente, poi andare lì e filmare e incontrare le persone e verificare il progetto, come è stato? Ma guarda, in realtà è strano, nel senso che io mi sono dovuta documentare in due direzioni, cioè da una parte proprio dal punto di vista della regia, nel senso che io faccio l'attrice da quando ho 15 anni, 16 anni, e quindi ho un'esperienza di set, ma è sempre molto facile, no? Giudicare, criticare, però poi quando ci si trova a dover mettere in piedi un piano di lavorazione, di produzione, scegliere l'operatore, vai a fare l'incontro con l'operatore, il direttore della fotografia, il montatore, che ti chiedono allora questa cosa, quindi ma tu vorresti girare così, così o così? Ecco, ho dovuto fare tutto un lavoro di quel tipo di preparazione, tra l'altro molto breve, perché ho avuto in realtà 2 settimane e mezzo per la preparazione. Un'altra parte della preparazione è consistita in un viaggio di sopralluoghi che ho chiesto di fare, che era un po' una condizione sine qua non per andare a girare, e in cui ho avuto la fortuna e la possibilità di portare con me Christian Dondi, che è stato assistente, operatore e anche montatore del film insieme a me. E quindi questi sopralluoghi sono stati, diciamo, la parte più, se vogliamo, più intensa, nel senso che io ero già stata in Africa, ma non ero mai stata in Etiopia, ho viaggiato molto, ma insomma non ero mai stata lì e non ero mai stata con quel tipo di attenzione a cercare delle cose, no? Sì. E con quell'apertura per lasciarsi colpire dalle cose che si trovano. Quindi quella settimana lì di sopralluoghi è stata fondamentale per scegliere le persone, per scegliere degli interlocutori e anche per scegliere proprio una modalità. Cioè io arrivando lì non sapevo bene, tornata dal viaggio ho capito che quello che mi interessava di più era che le persone parlassero, cioè era cercare di, come dire, mettermi in una posizione tale per cui i miei interlocutori venissero verso di me e non l'inverso, no? Sì. Quindi poi il tempo delle riprese è stato, diciamo, dal punto di vista della sorpresa, in quel senso meno forte, no? Perché sì, comunque sì, già sì, conoscevo delle persone, già avevo stabilito un po' delle relazioni che sono state molto utili per la serenità, perché le persone si aprissero, perché comunque si parla di cose molto forti, si parla di persone malate di AIDS, di gente che ha 7 figli e non riesce a mandare avanti la famiglia, di persone che per avere un bicchiere d'acqua devono farsi 18 chilometri a piedi, no? Sì. E quindi era importante, come dire, sapere, era importante per loro sapere che c'era qualcuno di fronte a loro che non li guardava con pietà, ma che li guardava con ascolto e con rispetto e con stima. Mm-hmm. Invece la vera sorpresa è stata quella delle posizioni nostre, cioè la mia posizione di, mi fa impressione dirlo, ma documentarista, e la posizione di Rolando Artello, testimonial, che esprimevano in modi molto diversi sorpresa, disagio, sensazione di inadeguatezza, e quello insomma è stato curioso da mettere in scena, cioè da filmare, mm-hmm, da riprendere, da raccontare. Sì. E quindi ho deciso proprio nel montaggio poi del documentario di tenere questo, come dire, questo imbarazzo, di farlo diventare uno dei fili portanti del documentario stesso. Sì. Cioè dire: non mi interessa soltanto sapere che cosa fa ActionAid lì e che cosa succede in Etiopia, a nord-est di Addis Abeba, mi interessa anche mettere a fuoco la difficoltà che noi abbiamo di confrontarci e di rapportarci con una certa comunità, con una certa differenza, con l'altro, no? Mm-hmm. E questo mi sembrava un modo anche per creare un ponte tra uno spettatore ignaro e il film stesso, ecco. Mm-hmm. Senti Valentina, è stato presentato la settimana scorsa, che destino avrà adesso Melkam Zena? Melkam Zena, che vuol dire buone notizie, tra l'altro. Buone notizie, con la K, tra l'altro, Melkam con la K. Esatto. Mm-hmm. E che destino avrà? Guarda, francamente non lo so, nel senso che inizialmente il documentario è nato per promuovere il lavoro di ActionAid, quindi, come dire, come un lavoro interno, no? Cioè come un lavoro per loro, non aveva nessuna pretesa distributiva, eccetera. Poi invece abbiamo avuto la fortuna di essere scelti dal RIF e quindi è stato presentato in concorso al RIF, al Festival di Cinema Indipendente a Roma. E adesso in realtà sono serate, cioè se mi invitano a presentarlo io vado e lo accompagno. ActionAid non può vendere il film, non può, loro come organizzazione non governativa nel loro statuto c'è, cioè, proprio che non possono vendere ma possono regalare, per cui il documentario è a disposizione ed è in regalo. Io sono felice di accompagnarlo quando lo chiedono. Adesso siamo stati a Udine, tra un po' a Milano. E insomma è un'occasione per aprire delle questioni, per parlare di certe cose di cui secondo me si parla troppo poco, e quando se ne parla anche un po' a sproposito, mm-hmm, o come dire, insomma, in maniera un po' superficiale, no? E sì, anche sì. Nel documentario c'è un po' questa volontà di non dare delle risposte, ma di mettere a fuoco delle domande, perché molto spesso si vedono questi film, no? Sulla povertà, alla fine dei quali si torna a casa con una specie di frase fatta che ci libera la coscienza e ce ne andiamo a cena e possiamo dire: ah, ho visto quello e mi sento adesso cioè il paradosso è che invece di responsabilizzare le persone le deresponsabilizzano, perché, come dire, vedere il documentario sembra sufficiente per sentirsi con la coscienza a posto. Certo. Il mio tentativo è esattamente il tentativo inverso, cioè questo documentario ti mette in questione, per cui vai a casa e ti domandi: ma io che cosa faccio? Ma io dove mi metto? Sì. Io rispetto a queste cose come la penso? E secondo me fare degli incontri intorno a questo tema, con la scusa appunto della proiezione del documentario, è sensato per mettere in moto dei meccanismi di curiosità, di eventuale disponibilità futura e di collaborazione, ecco. Bene, Valentina, allora io ti abbraccio a questo punto e ti do appuntamento per i prossimi appuntamenti della radio. Ci sarà una festa per i 35 anni venerdì della prossima settimana, 18 maggio, al Centro Sociale La Torre, una festa con Elio Germano, Valerio Aprea, Eleonora Danco, Johnny Palomba, insomma festeggiamo i nostri 35 anni e poi due giorni dopo, la domenica, come già ci siamo detti a Stona Favola, saremo a Via Bertani con almeno tre coppie di artisti che faranno leggeranno delle favole con accompagnamento musicale, per cui ci sarà modo di rivederci. Io ti abbraccio e a presto. Le scuse, perché invece noi ci siamo incontrati in aeroporto e non ti ho salutato. Ma però eri impegnata. Questo fa ridere, dai. Eri impegnata a poi a lei. In diretta, no? Sì, sì. Poi a Parigi. Eri impegnata a finire il libro. Ero impegnata a finire, sì, esatto, il libro. Esatto. L'ho finito. E poi veniamo un po' dai festeggiamenti per la sconfitta di Sarko, per cui. Esatto. Per la vittoria di Hollande. Bisogna sempre festeggiare la vittoria, non le sconfitte, secondo me. Sì, sì, anche se. Insomma, anche lì credo sia stato un po' votare il meno peggio per molti. Sì, votare il meno peggio, però comunque, come dire, onorare il buono che c'è invece di distruggere quello che già si distrugge da te, no? Sì, certo. Così, questo è il mio punto di vista. Certo. Valentina, ti abbraccio e a presto. Ciao, abbraccio grande. Valentina Carnelutti, regista del documentario Melkam Zena. Bene, siamo in collegamento con Gianfranco, regista Gianfranco Pannone. Eccoci che qua. In questo caso è autore del libro Doc Doc, 10 anni di cinema e altre storie. Gianfranco, ben ritrovato su queste frequenze. Buongiorno, perché è ancora giorno, è ancora giorno. Ciao Federico. Come stai? Bene, bene, sono a Napoli adesso, che oggi presento questo libro a Napoli. L'hai presentato anche a Roma un paio di giorni fa, alla Libreria del Cinema, se non sbaglio. E, allora, come nasce questo libro? Ma è uno strano, una strana storia, ma non è che tanto strana in fondo. È un passaggio dalla rete alla carta stampata, quindi inverso a come si crede abitualmente, nel senso che sono 12 anni che io sulla rivista online www.ildocumentario.it, che è un po' il portale del documentario, appunto il luogo dove tutti possiamo raccogliere informazioni su cosa succede nel mondo del documentario, ma non solo, ho una rubrica che attualmente si chiama Doc Doc. È arrivato appunto a un numero abbastanza alto di articoli, un'ottantina, parlando con Paolo Speranza, che è curatore di questa collana per l'edizione Mefite Cinema Sud, una casa editrice meridionale, e ho pensato bene di poterlo pubblicare, poiché in Italia un libro non si nega a nessuno, tutto sommato. Alla fine ho detto: perché non lo faccio pure io? No, ho già altre pubblicazioni alle spalle, però questo libro per me è importante perché, come dire, è una sorta di diario durato 10 anni, ancora oggi ho questa rubrica, però si ferma al 2011. Un diario in cui non parlo solo di documentario, parlo di cinema, parlo anche di questo strano paese che si chiama Italia, perché per me parlare solo dello specifico filmico è un po' noiosetto. E quindi insomma è un libro che si può anche proporre al lettore non necessariamente cinefilo, insomma, perché è una riflessione particolare, insomma, nel senso, da un'angolazione che ovviamente è cinematografica, anche sul nostro paese, sull'Europa, su cosa significa oggi la comunicazione, cosa significa oggi trovare un pubblico diverso da quello abituale anche per il cinema, cosa significa anche questo nostro paese su un piano politico e sociale, insomma. Senti, questi 10 anni di collaborazione di scrittura con il documentario.it, che bilancio ne fai? Ma guarda, io è un bilancio che non riguarda solo il documentario. Allora, per quanto riguarda, innanzitutto c'è un fenomeno che non tutti conoscono in Italia, che è quello del documentario, sì. In particolare del documentario di creazione. Cioè esistono ormai due generazioni di cineasti, di registi, che partendo dal cosiddetto cinema del reale, quindi da uno sguardo sul documentario più creativo, tutto sommato ritengo che abbia raccontato questi ultimi 10 anni. Cioè, se volessimo fare una storia di questi ultimi 10 anni italiani, con tutte le contraddizioni, cioè per intenderci, dalla globalizzazione a Berlusconi, insomma, adesso semplifico al massimo, io credo che col documentario si potrebbe fare un bel viaggio. E allora, insomma, io ho accompagnato questi 10 anni parlando di questi film, parlando dei colleghi autori, riflettendo anche sulle difficoltà che abbiamo anche a far vedere i nostri film noi registi documentaristi nei circuiti distributivi canonici, ma allo stesso tempo però, come dire, ho parlato anche della necessità di guardare a questo paese anche con un po' di ottimismo, nel senso che questo paese ha avuto molti problemi, lo sappiamo tutti, insomma, in questo momento attraversiamo una crisi globale a cui si aggiunge anche, secondo me, una crisi morale del paese, però in tutto questo, per esempio, il documentario propone un viaggio nella provincia che ci mostra un'idea diversa da quella romano-centrica o milano-centrica, cioè di un paese comunque vivace, dove si fanno iniziative culturali, dove si ha voglia di capire e dove non ci si accontenta, come dire, della solita minestra. E questo, secondo me, mi fa pensare che tutto sommato dobbiamo imparare un po' tutti quanti a guardare il paese anche un po' con il mezzo bicchiere pieno. Il che non significa un ottimismo assoluto, ma significa solo provare a trovare anche quello che di buono offre questo paese, che non è un paese solo fatto di gente corrotta che non paga le tasse, ma anche di gente appassionata che ama la cultura. Io, portando in giro Ma che storia, il film su gioie e dolori intorno al nostro risorgimento, l'anno scorso ho fatto un viaggio lungo tutta la provincia italiana e devo dire che alla fine sono tornato anche un po' patriottico, nel senso che chi ha detto che il patriottismo debba solo appartenere alla destra, nel senso che a un certo punto ho visto che fuori da Roma e Milano magari ho scoperto l'acqua calda, questo è un paese che ha anche tante belle cose, e se non impariamo a innamorarci di nuovo di questo paese, a guardare le cose buone che abbiamo in questo paese, secondo me difficilmente usciremo fuori dallo stato di impasse in cui ci troviamo. Può sembrare una frase, un parlare un po' politichese, ma io credo che noi dobbiamo anche porci in termini politici nel senso più ampio del termine, cioè di respiro, cioè guardare anche alla possibilità di vivere in questo paese, essere orgogliosi anche di viverci e ovviamente sentirsi anche però cittadini del mondo, ben inteso, non sto facendo un discorso nazionalista. Senti Gianfranco, in chiusura due cose, la prima è se ci sono online dei riferimenti al tuo libro, e l'altra dal punto di vista cinematografico se sei al lavoro su qualcosa. Online ovviamente esiste ancora il documentario.it, ci sono ancora i miei articoli sulla rivista Doc Doc, quelli precedenti li trovate appunto nel libro Doc Doc. Per quanto riguarda i nuovi progetti, ovviamente io faccio nella vita innanzitutto il regista, insegno, scrivo, perché sono un inquieto, sono un nevrotico tutto sommato, e spero che sia una nevrosi sana, ma questo lo devono giudicare gli altri, non lo posso dire io. No, sui progetti sta per uscire un mio film documentario che sarà nella sezione internazionale di Cinema Ambiente, che si intitola Scuole in Libertà, sulla questione del nucleare in Italia, cioè questa strana storia del nucleare in Italia, che noi pensiamo di esserci lasciati alle spalle, ma in realtà non ce la siamo lasciata nulla, per nulla, perché comunque le scorie, come ben saprai, durano 80.000 anni, che non sono pochi come anni, e quindi racconto questa storia del nucleare a partire da una mia vecchia militanza, io vi dico sempre per scherzi, una precedente vita, ero un ventenne appunto antinuclearista a Latina, dove c'è stata una delle centrali nucleari più importanti, e quindi tornando ancora una volta nella mia terra, che è quella Pontina, sebbene io sia di origine napoletana, ho raccontato la storia del nucleare. Una storia del nucleare che in effetti può essere simbolica della nostra storia italiana, cioè una storia di odio, di amore, di prendere e lasciare, di grandi contraddizioni. E il film uscirà appunto a Cinema Ambiente e poi sarà distribuito da Ciucca, ma ci saranno anche alcuni festival, per cui spero di poterlo portare in giro tra quest'estate e l'autunno prossimo. Beh, ci sarà modo sicuramente di riparlarne con te. Gianfranco, molto figurati. Io ti abbraccio e a presto a questo punto. Grazie mille per la buona accoglienza e buon proseguimento. Ciao, grazie Gianfranco. Ciao. Gianfranco Pannone, autore del libro Doc Doc, 10 anni di cinema e altre storie. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15 per parlare di cinema. È con noi Stefano Chiantini, regista del film Isole, che esce domani sia nelle sale che online. Intanto Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. E ti chiedo intanto in quante copie uscirà? Guarda, questa è una cosa che ancora non è definita, nel senso che il film avrà una distribuzione abbastanza particolare, perché uscirà a Roma al Zaker, dopodiché in altre sale italiane, poi però dalle sale romane sarà ritirato e uscirà in contemporanea su Repubblica.it in streaming. Tra l'altro, ecco, in streaming sarà gratuito. Senti Stefano, intanto per chi ci ascolta, parliamo un po' dell'idea, della storia di Isole. Sì, è una storia, tra virgolette, abbastanza semplice, che vive di emozioni. È ambientata sulle Isole Tremiti, dove vive questa ragazza che nel film è Asia Argento, sotto la tutela di un anziano prete che è Giorgio Colangeli. Asia Argento ha deciso nel film, il personaggio di Asia non parla perché comunque ha subito un trauma e perché ha deciso di non parlare perché non ci sono persone in grado di relazionarsi, diciamo, a lei, finché nell'isola non arriva un uomo dell'est Europa che finisce per fare il badante all'anziano prete, e fra i tre nasce un'amicizia che comunque riscatterà un po' le loro vite. Senti, Isole come un po' come il discorso Via dalla Pazza Folla? Sì, anche un po' come quello. Che non guasta mai. Senti, un cast importante, Ivan Franek, Giorgio Colangeli, ecco, come si sono coinvolti nel progetto? Guarda, diciamo che essendo un progetto a basso budget c'è stato, cioè tutti hanno sposato appunto l'idea, la storia e si sono affezionati al progetto, e quindi è stato un coinvolgimento personale in primo luogo, dopodiché beh, è andato tutto avanti, però diciamo hanno creduto fin dall'inizio al progetto, questa è stata la base. E l'idea di partenza qual era stata per il film? In che senso? La tua idea, nel senso del progetto filmico proprio, come l'hai pensato? No, vabbè, l'idea poi è stata abbastanza fedele a quello che è stato poi il risultato, insomma. L'idea era appunto di mettere su questo progetto in maniera fortemente indipendente, puntando solo su finanziamenti privati, senza dover rendere conto a televisioni o a, appunto, finanziamenti statali, e puntando sulla disponibilità e sulla partecipazione delle persone. Stefano, ecco, di questo progetto mi interessava anche l'aspetto chiaramente dell'uscita in contemporanea sia in sala che online e per di più gratuitamente. Ecco, come ci siete arrivati a definire questa cosa? Questa è stata un'idea di Gianluca Arcopinto, che, che ogni tanto riattraversa queste frequenze, perché insomma spesso film che lo vedo coinvolto sono nostri ospiti, insomma. Sì, devo dire che lui appunto è in un certo senso un pioniere, no? Di certi discorsi. Diciamo che l'idea di Gianluca, che adesso ha aperto una nuova casa di distribuzione che si chiama Zaroff, che continuerà il discorso un po' che era stato della Pablo, la sua prima casa di distribuzione, era quella di dare una nuova, un nuovo spazio, una nuova visibilità a un certo tipo di cinema che in Italia, a causa delle cattive distribuzioni, non ha la possibilità di arrivare alle persone. E quindi, essendoci una chiusura da parte delle sale, che spesso per far uscire un film nel cinema pretendono un minimo garantito, insomma pretendono dei soldi, Gianluca ha deciso di uscire nelle sale che ci davano una disponibilità, basandosi sul valore del progetto e su nessun tipo di discorso economico, e in contemporanea quindi di uscire su streaming per sposare questo nuovo mezzo di comunicazione e interessare, avvicinare più persone possibili al cinema e al film. Senti, isole, visto che insomma ci troviamo in una città, una metropoli come Roma, ecco, com'è possibile vivere delle dimensioni di questo genere partendo invece da una condizione di cittadini e cittadine? Secondo te, il tuo modo di vedere? Il mio modo di vedere è un po' anche una cosa che ti porti dentro caratterialmente, insomma, secondo me c'è una predisposizione a certi ambienti, a certe atmosfere. È vero anche che magari si potrebbe abituare, anche i cittadini più incalliti potrebbero dopo un po' trovare benessere da questo tipo di vita e di situazione, però secondo me c'è una predisposizione, insomma, soprattutto nel caso delle isole Tremiti, che sono veramente forse estreme come discorso, insomma ci vivono 15 persone, 20 persone, è una cosa veramente particolare, insomma. Senti, ma tu ogni tanto ci passi dei periodi, oppure il periodo delle riprese è stato un momento particolare e prolungato di vita su un'isola? No, io le conoscevo perché ci vado da anni e ci passo dei lunghi periodi, sono un posto che sento molto vicino a me, e quindi le conoscevo bene, insomma, ecco, sono un'abitudinaria. Senti Stefano, fortunato tra l'altro, ricordiamolo, Isole in uscita l'11 maggio, domani 11 maggio, sia nelle sale che online. Ecco, online ci dai qualche ulteriore riferimento? Guarda, uscirà online su repubblica.it a partire dal 16 maggio, non proprio in contemporanea, ma subito qualche giorno dopo. Subito dopo, insomma. Invece a Roma appunto sarà una proiezione aperta al pubblico, dopodiché ritireremo il film dalle sale romane. Il nuovo Sager, grazie al sostegno di Moretti, darà il DVD omaggio a chi andrà a vedere invece il film in programmazione, e poi in seconda battuta riusciremo nelle sale di Roma, mentre invece staremo già da domani nelle sale, insomma, di tutta Italia. A questo punto chiudiamo con l'appuntamento di questa sera. Assolutamente sì, alle 22 il nuovo Sager. Benissimo. Stefano, ti abbraccio e a risentirci presto. Io a te, grazie mille. Ciao. Buon lavoro. Ciao, ciao. Stefano Chiantini, regista del film Isole, in uscita l'11 maggio in sala e poi qualche giorno dopo online. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa e proseguiamo con gli ospiti. Ed è con noi Luca Merloni, regista del film Disoccupato in affitto, in uscita domani nel circuito distribuzione indipendente. Luca, ben trovato. Ciao a tutti, grazie. Come lo potremmo definire? A me è venuta in mente la candy camera, un po'. No, beh, non è proprio una candy camera, perché la camera è abbastanza dichiarata, insomma, è un'inchiesta un po' insolita, un po' particolare, che ci è nata un po' tra le mani giorno per giorno, perché non avevamo nulla di stabilito quando siamo partiti, non sapevamo bene a che cosa saremmo andati incontro, e giorno per giorno, facendo questo giro d'Italia, abbiamo insomma realizzato questa inchiesta. Ecco, da dove sei partito? Come sei partito poi? Perché l'idea di partenza deve essere stata un'idea forte, insomma, che poi ha spinto a questo tour di riprese. Sì, guarda, l'idea di Per la miccia è stata, insomma, abbiamo preso spunto da un fatto realmente accaduto. Un ragazzo a Londra ha girato, nell'estate del 2010, ha girato con questo cartello per le vie di Londra e dopo 2 giorni ha avuto la fortuna di incontrare, era un cartello con scritto fatemi un colloquio, era una reale storia. Dopo un paio di giorni ha avuto la fortuna di incontrare un amministratore delegato di una grande società che l'ha assunto. E noi abbiamo, quindi questa cosa ci ha stimolato molto e abbiamo cercato un po' di imitarlo, insomma. Pietro si è rimesso questo cartello con scritto disoccupato in affitto e siamo partiti. Senti, che incontri avete fatto? A parte chiaramente ci sono quelli testimoniati nelle riprese, però immagino che ci sia anche molto fuori onda. Guarda, noi allora nel documentario ci sono selezionate circa un centinaio di volti di persone, ma ne abbiamo intervistate più di 500, insomma. Insomma, beh. Per cui molta gente. Quindi da nord a sud, immagino anche trasversalmente, sì, rispetto all'età e i sessi e le categorie sociali, che quadro ne viene fuori? Guarda, ne viene fuori un quadro molto, molto preoccupante e molto drammatico, perché comunque abbiamo toccato con mano questo problema, perché molte volte magari uno vede passeggiare per strada un signore distinto in giacca e cravatta nel centro delle città e pensa che sia indaffaratissimo nel suo lavoro, invece poi uno lo ferma e gli chiede qualcosa e questo sta facendo dei colloqui di lavoro perché è stato appena licenziato. Per cui ecco, abbiamo toccato con mano una realtà molto preoccupante e sempre di più, perché poi da quando l'abbiamo girato adesso i dati sulla disoccupazione sono aumentati, insomma. Senti, arriviamo anche al discorso del circuito distribuzione indipendente. Sì. Come ci sei venuto in contatto e che idea te ne sei fatta? Perché noi ne abbiamo parlato diffusamente più volte. Guarda, è un'idea di Giovanni Costantino e di altri suoi due soci. Io penso che sia un'idea molto, molto bella, molto anche coraggiosa, perché comunque creare questo circuito di piccole sale in tutta Italia, dove fare uscire film, documentari, anche di animazione, cortometraggi, è un'idea molto bella, insomma, si dà vita, ecco, si fanno girare, anche se in piccole sale, però si fanno girare dei film. Quindi è molto bella. In quante sale uscirà del Guarda, circuito? Esattamente non lo so, però penso in più di 20. In più di 20, il che mi pare una cifra ragguardevole, insomma. Senti Luca, certo. Tornando invece al documento, non so, il film, documentario, non so bene come chiamarlo, qual era la tua idea rispetto proprio alla concezione del lavoro? In che senso? Il lavoro come entità. Non ho capito bene la domanda. La questione lavoro, chiaramente, tu come lo concepisci il lavoro? Guarda, io sono abituato essendo così, facendo questo mestiere, sono abituato a stare anche alcuni periodi senza lavorare, altri lavorando. È un'altalena, devo dire, negli ultimi anni ho visto che comunque anche tra miei amici e colleghi la situazione è peggiorata molto, ecco, per cui si prende un po' quello che c'è e si cerca di arrabattarsi in qualche modo, ecco. Senti, non è sicuramente una cosa allegra, però non bisogna neanche forse, insomma, anche se ci vuole essere un messaggio anche in questo documentario, è quello, insomma, di non starsene a casa a lamentarsi, ecco, di reagire in qualche modo, di cercare qualche idea, ecco. Ecco, proprio a questo proposito, visto che insomma hai avuto modo di parlare con parecchia gente in tutta la penisola, e quali sono state per esempio gli stimoli, le idee positive che ti hanno sorpreso, che sono venute fuori? Ma guarda, le persone erano molto, ci hanno fatto un grande tifo in giro, Pietro ha ricevuto molti complimenti e molti lo invidiavano un po' per il coraggio che aveva a fare questa azione, che è anche un po' quasi una performance, insomma, per cui era molto, molto incoraggiato, molto invidiato, abbiamo ricevuto un grande tifo da parte di tutti, veramente. Forse molta gente avrebbe avuto voglia, ecco, di manifestare in qualche modo il disagio con questa azione, ecco. Senti, disoccupato in affitto finora ha avuto una circuitazione festivaliera e con quali risultati? Come è andata in giro? Guarda, è stato presentato l'anno scorso al Roma Independent Film Festival, sì. Ha avuto un grande successo, c'era gente fuori che non riuscita a entrare, per cui sono rimasto anch'io abbastanza sorpreso da questa cosa ed è piaciuto molto, insomma, per fortuna. Quella è stata la prima e unica presentazione o ci sono stati altri festival che vi hanno ospitato? No, ci sono stati poi delle proiezioni in altre rassegne un po' in tutta Italia, insomma non moltissime, però 5-6 diciamo presentazioni all'interno di altre rassegne di documentari. Ho visto che comunque è uscito già da un po' di tempo, nel frattempo ti sei impegnato in altri progetti, Luca? Sì, sto realizzando una specie di film collettivo dove chiedo alle persone di fare delle interviste da parte mia, insomma io praticamente non faccio nulla, chiedo agli altri di fare queste interviste sul senso della vita, sono queste 7 domande, si chiama infatti 7 questions, e ho appena iniziato, sto già ricevendo del materiale, adesso vedrò quando raccoglierò un po' di roba, poi se la selezionerò e vorrei fare quest'altra specie di inchiesta, insomma, sul senso della vita. Uh-huh. E tornando al disoccupato in affitto, su internet c'è un sito dedicato a questo lavoro oppure altro? Sì, c'è un piccolo sito, un blog più che altro, che si chiama disoccupatoinaffitto.blogspot.com, dove ci sono un po' di informazioni, il trailer, e si può anche vedere la prima parte, diciamo, la prima città che è Roma. Benissimo. Luca, un abbraccio, allora a risentirci per il prossimo progetto. Perfetto, grazie. Ciao, un abbraccio. A presto, grazie a tutti, ciao. Luca Merloni, regista di Disoccupato in affitto, in uscita l'11 maggio nel circuito distribuzione indipendente. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15 per parlare di cinema. Le informazioni le trovate, la scaletta la trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni, Visionari, gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani venerdì 11 maggio, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana, il link per leggere recensioni e riascoltare sia la puntata precedente che in fondo alla pagina il link che rimanda all'archivio del 2012, quindi con tutte le puntate di quest'anno. In collegamento con Alessandro Rossi, co-regista del documentario God Save the Green, scusate. Tanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Alessandro. Grazie, ciao a tutti. Tu insieme a Michele Mellara, giusto? Esatto, che vi salutano, ovviamente siamo il telefono è uno, quindi parlo io, ma Mellara è qua in spirito, diciamo così. Allora, partendo dal titolo, si parla di verde, Dio salvi il verde, questo è il titolo che rimanda al motto inglese. Di quale verde si tratta, Alessandro? Si tratta del verde urbano, del verde urbano declinato in tantissimi modi diversi, perché il documentario sarà, nel senso che sta per essere completato, lo stiamo per finire, un affresco di comunità di persone che in varie parti del mondo hanno deciso di trasformare il quartiere dove vivono, la casa dove vivono, i luoghi che frequentano abitualmente in spazi verdi coltivati o a orto o a giardino, quindi o per esigenze, diciamo, alimentari o per esigenze estetiche. E l'idea da dove è partita? Ma l'idea è partita parecchio tempo fa, perché il progetto è iniziato nel 2009, quindi sono praticamente 3 anni che stiamo lavorando su questo, e volevamo fare un documentario su il diritto al cibo, la sovranità alimentare, e un po' sullo stile di un documentario che avevamo già fatto sui farmaci, sull'accesso ai farmaci salvavita. Poi, approfondendo la materia, incontrando persone entrando più da vicino su questa realtà verde, ci siamo appassionati alla dimensione urbana del verde, quindi a quello che vediamo come una grande trasformazione delle città che è in corso, cioè il bisogno di riportare una terra fertile dentro alle nostre città che sono sempre meno accoglienti, sempre meno a misura d'uomo. Alessandro, la prima idea che mi viene in mente parlando di verde urbano sono i parchi e i giardini e gli orti urbani. Ecco, invece quali altre dimensioni avete incontrato, avete conosciuto? sono tutte dimensioni più informali, e quello che abbiamo cercato era appunto un verde che non fosse il verde del comune, ovvero il giardino pubblico, ma che fosse più un verde inventato, creato dal nulla, per cui ad esempio ci sono le realtà di quello che chiamiamo il primo mondo, ad esempio Berlino, con questi orti comunitari in cui non c'è ad esempio una divisione in lotti come siamo abituati negli orti sociali, negli orti degli anziani, ma tutti coltivano insieme e tutti godono insieme dei frutti dell'orto. Oppure nel sud del mondo, visto che il nostro affresco copre sia il nord che il sud del mondo, realtà di sperimentali e innovative di produzione per la sussistenza e la vendita di ortaggi, ad esempio le coltivazioni idroponiche, ossia fuori suolo, nel nord-est del Brasile, a Teresina, nel Piauí. Quindi insomma sono tutte esperienze molto originali, molto particolari, che possono anche servire un po' da spunto per crearsi il proprio spazio verde. Stavo ripensando all'esperienza di Berlino, sembra proprio quella del motto: da ciascuno secondo le proprie possibilità, ciascuno secondo i propri bisogni. Sì, c'è molto quello. Poi Berlino è una città particolare per questo, nel senso che ha degli spazi di creazione collettiva molto ampi, molto diffusi. C'è un movimento di guerriglia gardening molto attivo, raccontiamo anche quello, quindi è una città particolare sicuramente. Sì, sì, sì. Senti Alessandro, per quanto riguarda i tetti, nel senso c'è anche, se ne è parlato anche, ho avuto modo di leggerne su giornali e altro rispetto ai tetti resi giardino, esiste anche questo tipo di esperienza, vero? Sì, sì, esiste. Dentro nel film ce ne sono un paio di queste esperienze. Una è una coltivazione sempre idroponica in un condominio popolare, di edilizia popolare della periferia di Bologna, che è la nostra città, e un altro invece è una cosa che quando l'abbiamo incontrata siamo rimasti stupiti, e le persone che hanno già visto quelle clip confermano questo stupore, che è questo specie di orto botanico su un tetto di Torino, ma un orto botanico con degli alberi alti 12 metri, quindi un tetto. Senti, per quanto avete avuto modo di vedere, ci sono già effetti concreti, visibili, palpabili rispetto alla riduzione dell'inquinamento e chiaramente poi più in generale sull'effetto serra? C'erano dei dati sempre a Berlino, che sono molto più precisi di noi, che andando a visitare gli orti tradizionali, quindi quelli che là si chiamano Kleine Garten, piccoli giardini, che hanno una tradizione antica, che risale già alla Seconda Guerra Mondiale, quando erano orti di sussistenza, ecco, questi spazi declinati a orto, a giardino, influiscono notevolmente sulla riduzione anche dell'inquinamento, non solo. Loro avevano dei dati che adesso non ricordo, non so riportare, però non solo l'inquinamento di polveri e di smog, ma anche acustico, perché ovviamente gli alberi attutisce il rumore, certo, quindi vedi. Diventano degli isolanti naturali. Un aspetto al quale non pensavo, in effetti. Senti Alessandro, uno degli altri aspetti che mi interessava del vostro lavoro è questa chiamiamola sottoscrizione che avete indetto online. Sì, infatti, nel senso che come ti dicevo, il progetto del documentario è iniziato nel 2009 e è stato abbastanza laborioso. Pian piano abbiamo raccolto collaborazioni di altre società di produzione, c'è una grossa ONG che si chiama CEFA, che è una ONG storica di Bologna, che ha contribuito, più dei finanziamenti pubblici, il Piemonte Film Commission, Film Commission di Bologna, però anche questo lungo progetto è anche dispendioso sia come tempo che come denari, mancava ancora una piccola cifra, e abbiamo pensato di lanciare una campagna sul sito di Indiegogo, che è un sito americano che gestisce queste campagne di crowdfunding, di finanziamento dal basso, per raccogliere, c'è un aeroplano, perché sono vicino a un aeroplano, per raccogliere questa cifra mancante e anche per produrre un'edizione speciale del DVD che serva, e per questo secondo me è interessante anche questa campagna, nel momento in cui noi restituiremo a chi finanzia o chi sostiene con la campagna online il film, manderemo il DVD, può diventare anche uno strumento per diffondere i contenuti del film, quindi anche comunità che si occupano di verde e di orticoltura possono utilizzare lo strumento del finanziamento con anche cifre basse per avere poi in cambio una possibilità di riconoscersi nel film. Quindi un doppio strumento. Buono. Senti Alessandro, in chiusura, vi siete dati già delle scadenze rispetto al crowdfunding e all'uscita comunque del documentario? Il crowdfunding ha una scadenza il 4 luglio, quindi sono 2 mesi di campagna, anzi invito ad andare sia sul sito del film che è godsavethegreen.it, sia sul sito di Indiegogo, indiegogo.com. E per sostenere, si può sostenere il film anche con $5, visto che è un sito americano, si contribuisce in dollari, e finirà il 4 luglio. Per quella data noi arriveremo, penso, alla chiusura della copia campione del film e cercheremo una diffusione tradizionale inizialmente, quindi attraverso festival o altri spazi, per poi cercare tutti i canali possibili per dare visibilità a questo progetto. Bene, allora i riferimenti li abbiamo dati. Alessandro, io ti saluto, un abbraccio e a risentirci magari proprio in occasione dell'uscita. Molto volentieri, ti ringrazio molto e un grazie anche agli ascoltatori della vostra radio. Benissimo, a presto. A presto, ciao. Ciao. Alessandro Rossi, co-regista del documentario God Save the Green. Possiamo dire dulcis in fundo, Maurizio? Ah, buongiorno a tutti. Dulcis in fundo, vabbè, mi piace parlare greco, ma diciamo. Allora, Maurizio di Rienzo, un'altra volta con noi, chiaramente, per questa volta per parlare del tuo lavoro di coordinatore all'incontro con gli autori dei Corti d'Argento che si svolgerà alla Casa del Cinema qui a Roma dall'11 al 13 maggio. Maurizio, intanto mi piace questa idea di dare risalto al cortometraggio, che è un formato bistrattato. Sì, ormai da anni il Sindacato Nazionale dei Cinematografici, che è un'associazione di categoria, qui si trova anche critici, eccetera, molto gloriosa, è nata nel 43, fra i firmatari e costituenti c'era anche un certo Michelangelo Antonioni. Beh, insomma, da una decina d'anni siamo molto più attenti al cortometraggio e scegliamo periodi e situazioni ad hoc. Abbiamo dato alcuni premi a Cortina d'Ampezzo alla fine di Cortina Metraggio, ci ha ospitato per il secondo anno consecutivo, e siccome il sindacato è un po' povero, lo ospitano, ma allora, e proprio per dare il più risalto possibile, cerca di fare il meglio per gli autori. E quindi alcuni dei premi non sono stati assegnati, alcune delle menzioni, e altre verranno appunto ricordate lì. Sì, ci si divide in due programmi, domani dalle 17 alle 19, prima una ventina di minuti di premiazioni molto informali, di quelle residue, segnalazioni extra 5 gradi, eccetera. Il segnale sta sparendo, Maurizio. Torna con noi, il segnale. Sono qua, ecco, mi dicevo. E poi le proiezioni è sabato pomeriggio, stessa ora, con replica sabato alle 19 del primo gruppo di domani e domenica 13 alle 7 di sera, sempre alla Casa del Cinema, del secondo gruppo di domani pomeriggio. Sembra complicato, ma è facilissimo. Allora, quanti sono i corti che verranno? Allora, bene, i corti sono 12 di finzione cosiddetta, cioè con, in qualche modo, con attori, più uno decisamente diverso, a cui abbiamo voluto dare una menzione veramente extra, che è il corto che ha vinto Orizzonti Corti, dei due bravissimi registi, soprattutto i documentari, di Nicotera Calabresi, Filippo D'Agostino e Arturo Lavorato. Sarebbe In attesa dell'avvento, ha vinto a Venezia corto la sezione Orizzonti Corti. Pensa che Arturo è stato redattore per diverso tempo di questa radio. Ah, ma Arturo non so cosa non abbia fatto di importante, quindi gli ho fatto un complimento. No, beh, Arturo è molto, come dire, è molto preciso, è un grande intellettuale. Allora, si vedranno 12 film di finzione più questo In attesa dell'avvento e le tre animazioni che sono arrivate in finale. Devo segnalare che finalmente è in Italia Enrico Maria Artale, che sta preparando anche un lungometraggio, diplomatosi al centro sperimentale da poco, 28enne, che ha vinto uno dei due nastri come miglior film assoluto, il nastro per la regia, è andato a Giuseppe Marco Albano per la commedia molto divertente girata a Matera, Stand by Me, e Il respiro dell'acqua invece è una sorta di thriller con pochissime parole su una vendetta, 11 minuti davvero essenziali, è stato in concorso a Locarno l'anno scorso e poi da noi ha vinto il nastro e lui è stato in America per 2 settimane di stage, di stage anzi, all'inglese, in California, gli studi Universal Studios, gli studi Universal, anzi, Universal Studios sono i parchi di divertimento, gli studi Universal, proprio perché è stato anche scelto da Studio Universal come uno dei talenti giovani più importanti italiani. E poi della 5ª finalista mi piace segnalare ancora Countdown di Max Croci, Sotto casa di Alessio Lauria, un corto esilarante di 5 minuti che viene da Talenti in corto del premio Solinas, e il notevole Fireworks di Giacomo Abruzzese, che è un esercizio di regia non fine a se stesso, in cui l'argomento dell'inquinamento, Taranto è una città disgregata e multietnica, viene fuori molto molto bene. E questo è più o meno, l'animazione l'ha vinta ancora una volta Astutillo Smeriglia, che in realtà non è Astutillo Smeriglia, si chiama Antonio, non vi dico il cognome, perché è un nome d'arte. L'anno scorso ha pure preso un premio con l'irresistibile Training Autogeno. Poi devo segnalare una menzione per il soggetto alla colpa di Francesco Prisco, in cui è molto bravo anche Gianmarco Tognazzi, una menzione per la produzione e la qualità che si ripete per Bruno e Fabrizio Usso di Esci Reale, che insomma hanno già fatto altri corsi importanti, questo qua si chiama Salvatore, e infine un'altra menzione per Achiana di Giorgio Scarpignano, che era a controcampo della mostra di Venezia e che rievoca in 18 minuti alcune fasi della rivolta di Rosarno in una maniera evidentemente molto più che toccante, proprio incisiva. E poi ci sono altri film, qualche commedia e queste cose, divise in due parti. Domani soltanto però, presentazione di registi e consegna di queste menzioni, informali 20 minuti di festeggiamento, poi aperto anche al pubblico oltre che alla delegazione dei film. Sempre riguardo agli autori, Maurizio, ricordo che gli Urso e Artale sono stati i nostri ospiti, mentre Abruzzese per Fireworks lo stavo cercando da un po' di tempo, lui però è a Parigi. Esatto, fondamentalmente vive a Parigi. Vive a Parigi. Così come Giona Scarpignano fondamentalmente sta in America. Sì, perché sì, lui è americano, quindi abbiamo queste situazioni di talenti, come dire, viaggianti, itineranti, esatto, ma va bene, per esatto, carità. Sì, quindi avete avuto quei due ospiti importanti. No, Abruzzese, con Abruzzese siamo rimasti d'accordo che quando sarà in Italia avremo modo di sentirci in trasmissione. Perfetto. Ti consiglio di sentire anche Giuseppe Marco Albano, questo Stand by Me, se non l'hai visto te lo farò vedere io, ho capita nella casa del cinema, è molto divertente perché senza anticipare troppo a un certo momento parte un'ironia su The Passion of the Christ di Mel Gibson, che è esilarante, e quindi bisogna vederlo. Senti Maurizio, allora tu dicevi di questa attenzione sempre crescente del sindacato nei confronti dei cortometraggi, però volevo chiederti in generale, rispetto ai mezzi di diffusione come la rete e come le sale, com'è la situazione rispetto al cortometraggio? Stagnante, ferma, non escono in sala, è complicatissimo, ci sono eccezioni una ogni 2 anni probabilmente. Che ti devo dire, dal punto di vista del web bisogna capire se c'è possibilità di una liberalizzazione di visioni, c'è un pay per view minimo, una piattaforma per i cortometraggi. Adesso la distribuzione indipendente ha messo in circolazione 4 gruppi eterogenei ma a tema, diciamo, uno per ciascuno, gruppi di cortometraggi italiani recenti, alcuni molto interessanti, però chi li va a vedere non lo so. Questa programmazione, ventilata programmazione differenziata di cui si parla e in cui stanno in qualche modo lottando l'ANEC, i distributori, gli esercenti dell'ANEC, gli esercenti dei multiplex e i distributori, forse dovrebbe arrivare in Italia a maggior compimento, specie nelle grandi città. Cioè tu hai una sala, perché devi programmare nello stesso giorno, specie in mezzo alla settimana, lo stesso film? Puoi programmarne 2 a secondo del target, puoi sfalsare. Certo. Di conseguenza se hai 3-4 schermi, 5 schermi, non c'è bisogno di avere un multiplex, anche una multisala come a Roma il 4 Fontane o l'Eden può farlo, e lo fanno qualche volta. Quindi i corti potrebbero rientrare in un progetto dedicati, per esempio un lunedì sera alle 20 ci sono sempre corti in quella sala, naturalmente corti che si devono distribuire, è tutto un meccanismo in fieri, però la distribuzione a livello teatrico, appunto il cinema, è complicatissima. La distribuzione in TV non ne parliamo neanche, perché non ci sono quasi spazi sono molto rari. Studio Universal fa qualcosa, Sky fa qualcosina, la 7 prende qualcosa, ma non parliamo di Rai. Una volta c'era Circuito 5, almeno a Mediaset bisogna dire, c'era Corso 5, scusate, beh, non era del tutto da buttare, no, hanno buttato anche quello. Quindi, quindi diciamo che è una situazione complicata, se ne fanno credo 600-700 all'anno in Italia, sì, compresi sì, corti HD, dico pure per cortometraggi, non parlo di video, ma diciamo mettiamoci anche la videoarte, però alcune di cose di videoarte sono, sfuggono al censimento perché vanno direttamente a installazioni, gallerie, certo, mostre, sono qualcos'altro. Quindi diciamo che sono 500-600, ma vado a naso, dato la mia esperienza io ne vedo 200 circa all'anno, so che ce ne sono moltissimi altri. E naturalmente molti sono girati ormai in digitale, rarissimi quelli in pellicola, ma non è quello il problema è quanti soldi trovare, visto che proprio ieri c'è stata un'audizione al Ministero, al MIBAC, per una serie di pretendenti fra cortometraggi e documentari, chissà com'è andata, quanti ne hanno promossi e quanti ne hanno finanziati, ma sempre col massimo di 25-30 mila euro, per carità, sì, che per un cortometraggio in Italia è come vincere l'Enalotto, insomma, perché altrove si fanno con più soldi quando è necessario farlo con più soldi, ma i sistemi francesi, anche la cosiddetta improvvisazione indipendente americana, paese che andrà criticato per certe cose, ma tu se ti metti insieme certi fondi li trovi, e un corto con 4.000 euro riesci poi a portarlo in certi circuiti, ecco, da noi non c'è. Bene, in chiusura Maurizio, ricordiamo allora i Corti d'Argento, Casa del Cinema qui a Roma, sì, da domani al 13 maggio, con te che sarai da coordinatore sì, rispetto agli autori. Ti saluto, che è arrivato qui il nostro Valerio Mastandrea, che tra poco ci leggerà delle favole in diretta. E... sono ansioso di sentirvi anch'io, salutami il buon Mastandrea, ripeto, domani alle 5 alla Casa del Cinema, sabato alle 5 ancora, i due gruppi di 16 cortometraggi, e repliche sabato alle 7 e domenica alle 7. Sempre alla Casa del Cinema. Grazie, abbraccio, grazie. Maurizio, ciao. Ciao, grazie, ciao. Bene, lui era Maurizio Di Rienzo, nostro ospite abbastanza abituale per quanto riguarda i Corti d'Argento. In questo caso Visionari vi saluta, vi dà appuntamento giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le troverete sulla scaletta della trasmissione sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, con gli ospiti di questa puntata e poi chiaramente della prossima, le uscite in sala di domani venerdì 11 maggio, le nostre indicazioni su film già in programmazione a Roma e provincia. I film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, gli altri appuntamenti della settimana, il link per leggere recensioni e riascoltare la puntata precedente e le puntate di questo 2012.